Solo un faraone, solo un faraone. Su sti beat con il mic, solo un faraone. Solo un faraone, solo un faraone. Fumo weed, veste miss, solo un faraone. Nel mio quartiere tu gira così, ama la neve, nessuno li sci. Nice scuole nere per scappare dalle pantere, per storie di G. Moncler addosso puzza di container, sbavo alle cagne zio come un Rottweiler. C'ho un nudo in bocca sul beat di Andre, e questi fake zio non hanno speranze, non hanno speranze. Se circola Franco, se circola weed all'interno del branco. Il flow che mi invita a spaccare sul quarto, e qualche suicida mi sta criticando. Giro con Sigo BR comando, pompa sanguisughe che scoppia l'impianto. Giro con Sigo BR comando, pompa sanguisughe che scoppia l'impianto. Zio, la vedi sta faccia sopra la traccia, taglia più teste dell'Isis. Che ti piace o no, nuovo boss del flow, fumo weed e me ne sto easy. Sono un faraone, Tutankhamon, a queste tipe tutte camon. Black Typhon, sotto sella, 3K tu la pagella. Air Max, Night Beetle, sul mic ti ho colpito. Beat by right, flow nitro, in my ride col cinquantino. Up office, meteoriti, caccoloni sui vestiti. Franco e Siga, faraoni, gli altri rapper stanno zitti. Solo un faraone, solo un faraone. Su sti beat con il mic, solo un faraone. Sono un faraone, sono un faraone. Fumo weed, feste miss, sono un faraone. Sono un faraone, sono un faraone. Su sti beat con il mic, sono un faraone. Sono un faraone, sono un faraone. Fumo weed, feste miss, sono un faraone. Fumo weed, feste miss, sono un faraone. Mi sembrano tutto uguali, ma quando mi presento cambia sempre il nome. Cambia sempre il nome. Sembro un cannone, Gunnar, figo come sei Ammar. Prima della morte sarò un faraone come Ramses. È il giorno dell'apocalisse, qua in pochi sanno fare business. A Apophis esce ti colpisce, è un meteorite di conquiste. Sono un faraone, voglio espandermi come un virus di pandemic. Aspetta che muoio per rimpiangermi. Senti il beat di Andre, da me sei distante. In studio 20 canne, sono il sergente Hartman. Arrivo e prendo ciò che mi merito. Quando muoio donatemi ai miei fra che mi cremano. Magari pensare che la vita non fosse una, pensare non fosse dura, pregare nella fortuna. Votare non è facile, scrivo 100 pagine, escono le lacrime, la forza c'è comuna. Fuma, fino a quando ci sta la luna, fino a quando non si consuma. Prendo il mic e sono un faraone, senti un'ovazione ad ogni mia chiusura. Ciao. Sono un faraone, sono un faraone. Su sti beat con il mic, sono un faraone. Sono un faraone, sono un faraone. Fumo weed, feste miss, sono un faraone. Sono un faraone, sono un faraone. Su sti beat con il mic, sono un faraone. Sono un faraone, sono un faraone. Fumo weed, feste miss, sono un faraone.